la voglia e la strategia di avere relazioni internazionali in genere, ma soprattutto europee, da parte dell'estrema destra italiana è cosa antica, cioè questo già avveniva negli anni 70, addirittura prima. Ricordiamoci poi ad esempio un passaggio della storia dell'estrema destra italiana che era molto importante. Esisteva un'agenzia in Portogallo, l'Aginter, che aveva come copertura un'agenzia di stampa che era una sorta di centrale poi di, come dire, di coordinamento di diversi gruppi. Quindi sono cose che in realtà sono strategie che provengono da lontano. Per arrivare ad oggi, Forza Nuova, che tu citavi prima, è un'organizzazione che è stata fondata nel 97, alla fine degli anni 90, da ex esponenti di terza posizione che erano fuggiti in Inghilterra come latitanti rispetto a una sentenza che li aveva visti condannati in Italia. In Inghilterra proprio questo nucleo italiano aveva creato una serie di rapporti con la destra inglese che poi confluirono in un'organizzazione che si chiamava Terza Posizione Internazionale, che diventa poi un po' il nucleo di una serie di reti, di galassie nere che poi arrivano fino ad oggi. Questo per fare riferimento a Forza Nuova, ma la stessa cosa vale per Casa Pound, che ha rapporti stretti ad esempio con la Francia. E questo vale per una delle ultime arrivate nel panorama dell'estrema destra, che è Generazione Identitaria, organizzazione che nasce in Francia come costola giovanile del Bloc Identitaire, che è un gruppo nato nel 2003 proprio in Francia, e che ha subito messo radici in Austria, in Germania, in Italia, in alcuni paesi dell'est, penso ad esempio all'Ungheria. Quindi, come dire, il senso di internazionalizzazione della presenza è sempre stato una caratteristica dell'estrema destra. Nel libro Europa Identitaria proprio ricostruisco questa rete, questa galassia, questa, come dire, internazionale e sovranista identitaria che sta prendendo molto spazio ultimamente. Infatti tu parti da una vicenda che abbiamo seguito anche da queste frequenze, quella della Sea Star, questa nave appunto all'interno della campagna Defend Europe di Generazione Identitaria, una vicenda che ha assunto anche caratteri tragicomici nel Mediterraneo, ma che ha testimoniato anche una grande capacità di mobilizzazione anche economica, giusto? Loro hanno dichiarato di aver raccolto più di $200,000 attraverso un sistema di crowdfunding, cioè di raccolta fondi online. Non sapremo mai, penso, come dire, chi sono stati i finanziatori. Sicuramente quella nave, secondo quanto dichiarato dai loro stessi dirigenti, è stata affittata per una cifra di almeno €60,000. Ricordiamoci che poi l'ultima operazione fatta sulle Alpi ha utilizzato droni, elicotteri, un aereo ultraleggero e dei SUV per un'operazione, come dire, di ronde sulle Alpi alla caccia di migranti. Quindi un importante budget li ha sostenuti con finanziatori che appunto non conosciamo. Al di là di questo, ma in ogni caso forse la questione chiave è proprio la capacità di rapporti internazionali che questa nuova destra riesce ad avere. Ad esempio sulla nave Sea Star, che dava la caccia all'ONG nel Mar Mediterraneo, aveva un equipaggio formato da francesi, austriaci, tedeschi e italiani. L'operazione fatta nelle Alpi è stata fatta congiuntamente da militanti italiani e francesi. Quindi, come dire, la nuova destra, che poi è la base della Lega Nord, della Lega di Salvini, come anche spiego, racconto nel libro, ha una forte capacità di creare rete a livello europeo. Una questione importante da avere presente, perché il prossimo anno ci saranno le elezioni europee e Salvini ci ha annunciato che il prossimo passaggio sarà quello di creare una lega delle leghe dei popoli, ovvero una sorta di internazionale leghista che abbia un respiro a livello continentale. Quindi sicuramente questo è un elemento da seguire da vicino. Certo, quindi insomma si dicono sovranisti, ma sono quelli che praticano il transnazionalismo meglio insomma di tutti dal punto di vista politico. Sì, questo da sempre. L'estrema destra ha sempre avuto una capacità, un collegamenti internazionali non sempre chiari. Nella storia dell'estrema destra ci sono molti, ancora oggi, molti punti oscuri. Sono, diciamo, sovranisti finché non si tratta appunto di trovare fonti di finanziamento, alleanze come appunto quella con l'Ungheria di Orban, o la Polonia, o la Repubblica Ceca, o la Slovacchia, o l'Austria. Quindi sovranisti salvo interessi immediati di alleanze. Prima, Andrea, parlavamo appunto di questa forte capacità che hanno questi gruppi anche di mobilitare risorse economiche, un vero e proprio network, tu lo racconti nel libro, e allora ti chiedo: come si compone questo network? Quali sono gli strumenti che utilizzano? Ad esempio, vediamo che dal punto di vista della comunicazione sono molto forti, e quindi come si articola? Quali sono le attività per arrivare a creare appunto questa struttura potente? Loro hanno puntato, ma come tantissime organizzazioni di quest'area, hanno puntato fin da subito sull'uso dei social, su come dire, riuscire ad aggregare consensi sui social, quindi puntando a quella che qualcuno nei giorni scorsi ha definito una vera e propria guerra civile in corso sui social in questo momento, no? Se noi vediamo quello che avviene, quello che si legge su Twitter o su Facebook in questo periodo, è qualcosa di mai visto, poi, anche dal punto di vista della violenza verbale che c'è. Comunque loro hanno puntato sui social, si sono alleati, hanno avuto subito una partnership con alcuni esponenti del mondo dell'alt-right statunitense, cioè due blogger, una canadese e l'altra statunitense, Laura Sautern e Brittany Pettibone, che fin dall'inizio hanno seguito diffuso le loro azioni, a partire dal tentativo di blocco dell'Aquarius nel maggio del 2017, ma soprattutto poi la missione con la C-Star. Hanno una doppia faccia: da una parte appunto una comunicazione molto controllata, cioè nel senso, se noi vediamo i messaggi sono sempre coordinati, sono sempre controllati, non esce mai fuori una virgola che la dirigenza non abbia previsto e programmato. Quindi aggressivi sulla rete, nel senso di avere una capacità di penetrazione dei social molto importante. Ricordiamoci che la nuova destra parte dall'assunto gramsciano dell'egemonia culturale, cioè loro da anni, la destra francese, la nouvelle droite francese, punta proprio a diventare egemone dal punto di vista culturale e politico. Chiaramente nell'epoca dei social il canale privilegiato dall'organizzazione è stato proprio questo. Quindi da una parte c'è questa capacità di penetrare l'opinione pubblica, la propaganda, di influenzare poi i partiti politici di riferimento, Lega Nord e Fratelli d'Italia soprattutto, attraverso alleanze, attraverso centri di studi, convegni fatti insieme, una serie di partnership che racconto nel libro. Dall'altra parte, a livello organizzativo invece sono estremamente chiusi, nel senso che non comunicano mai il luogo dove si ritrovano, non dicono mai in quale sala fanno il convegno, se chi vuole partecipare deve contattarli privatamente. Addirittura quando hanno fatto una convention a Londra qualche mese fa, facevano firmare un impegno dove si dichiarava di non essere né giornalista né un attivista, insomma di andare lì senza registrare, senza documentare nulla. Quindi è una struttura abbastanza chiusa. Nel libro racconto lo studio fatto da un sociologo francese che è riuscito ad infiltrarsi nell'organizzazione identitaria francesi per circa un anno, dove racconta proprio la gerarchia e la struttura piramidale, e soprattutto la loro vera e propria ossessione di evitare che possano uscire informazioni interne dell'organizzazione. E questo sicuramente è una caratteristica che secondo me è preoccupante, insomma, che dovrebbe essere approfondita. Quindi c'è una forte organizzazione militaresca dal punto di vista interno, ma nello stesso tempo una capacità di penetrazione dell'opinione pubblica utilizzando cavalli di Troia come la questione appunto delle migrazioni, ma ad esempio tutto il tema dell'ONG, che oggi è su tutti i giornali, è stato il loro cavallo di battaglia fin dallo scorso anno, proprio collegandolo al discorso della migrazione, cioè l'obiettivo che avevano apertamente era quella di infamare l'ONG, cioè quella di mostrare come le ONG fossero vicine ai trafficanti libici, che è un dato falso, dimostrato apertamente che è un falso, però questa balla colossale ha permesso loro di creare un forte consenso in rete, di divenire un punto di riferimento all'interno della destra complessivamente, anche per la Lega, e soprattutto di far passare poi appunto accuse infamanti per l'ONG, una narrazione tossica sulle organizzazioni umanitarie. Quindi in questo senso hanno avuto un'abilità, tanti soldi, ma soprattutto poi un campo purtroppo abbastanza aperto per poter penetrare l'opinione pubblica italiana ed europea. Ecco, l'ultima domanda veloce che ti faccio è riguarda il piano sociale. Come e se lavorano sul piano sociale? Noi ci ricordiamo di Alba Dorata, che distribuiva viveri medicinali appunto in Grecia. Anche le organizzazioni italiane hanno fatto un lavoro di questo tipo, soprattutto nella zona di Latina, insomma nel Lazio. È un aspetto rilevante questo oppure no? Deve essere fatta una distinzione: da una parte sono le organizzazioni italiane storiche tipo Casa Pound e Forza Nuova, soprattutto Casa Pound, che hanno come attività politica una propensione politica a svolgere attività sociali, ma che servono sempre comunque a creare consenso. Quindi soprattutto a Roma, tu citavi il caso di Latina, ma ad esempio a Roma nel caso di Casa Pound, sul tema ad esempio della casa, quindi l'emergenza abitativa, sono usciti a creare dei forti consensi nelle periferie, basandosi poi su dati sbagliati, su insomma, una narrazione assolutamente fuorviante. La stessa cosa ci prova con minori risorse anche Forza Nuova, con la distribuzione del cibo agli italiani ovviamente, altre iniziative di questo tipo, che sono iniziative di propaganda, di creazione di consenso sostanzialmente. Per quanto riguarda invece le nuove organizzazioni tipo Generazione Identitaria o organizzazioni simili, sono fortemente elitarie, non hanno nessun tipo di attività sul territorio di tipo sociale, si pongono come avanguardia soprattutto culturale rispetto alle altre organizzazioni, e sono in questo senso abbastanza nuove rispetto al panorama dell'estrema destra. Quindi va fatta una distinzione tra i tipi di organizzazione, per capire appunto anche i loro rapporti con il territorio e con le attività sociali.